mesi di intercettazioni e di, poi usiamo il termine tecnico, sputtanamento dal punto di vista politico, che ha coinvolto decine di persone bollate come prostitute all'ingrosso, e che ripropongono dopo Craxi, dopo Forlani, dopo Mastella, dopo vent'anni. Il problema è che in questo paese la politica, le maggioranze e gli equilibri li determinano non gli elettori, ma alcuni magistrati con le loro iniziative. Cioè, lo dica, vogliono abbattere Berlusconi giudiziariamente. Ma mi sembra chiaro, quando il procuratore di Milano un mese fa dice che nella famosa telefonata non c'è ombra di reato, hanno archiviato tutto, è tutto regolare, e un mese dopo veniamo a sapere che la stessa telefonata da altri magistrati di Milano viene definita concussione, che è una cosa lunare, e si fa un'operazione politica, perché da due giorni si stanno usando termini pesantissime nei confronti del Presidente del Consiglio, di cui, ripeto, non condivido il tipo di comportamento, ma una questione è il giudizio morale, politico su un comportamento, e un altro conto è volerlo trascinare alla sbarra e condannare addebitandogli dei reati inesistenti. Lei lo ha anche consigliato di collezionare francobolli, francobolli. Come Roosevelt, come Andreotti, come Sarkozy, nel senso, è chiaro che è una battuta. Temo che non la colga questa attività, ecco, che sono sicuramente meno a rischio e meno criticabili di quelle che hanno portato in questi giorni a una crisi politica di grandi dimensioni. Però i reati contestati sono molto gravi, per esempio. Sì, ma non sono inventati. Mi scusi, questo però si vedrà. Non è inventata, perché non c'era e non c'è. Basta parlare con qualsiasi questura e con qualsiasi tribunale di minorenni d'Italia per sapere che in quel caso e in casi analoghi che succedono centinaia di volte in Italia, i vigili, la questura, i carabinieri devono trovare una persona a cui dare in collocazione il minore, il quale minore poi, una volta collocato, può andarsene benissimo 5 minuti dopo da solo, perché non è né in stato d'arresto né in stato di carcerazione, e quindi quello che è successo a Milano è totalmente regolare. Ma al di là, però, mi scusi Giovanardi, non è secondo lei anomalo che un Presidente del Consiglio si interessi con una telefonata? Poi vedremo che cosa sa quante telefonate arrivano alla questura, alle prefetture, ai pronti soccorsi da parte di prefetti, di questori, di politici, di parlamentari, di assessori, quando c'è una situazione che riguarda un parente, una persona conosciuta. Possiamo dire, è stato inelegante da parte di Berlusconi telefonare, non doveva informarsi di come veniva trattata quella ragazza? Posso essere d'accordo, è un reato? Di chi è il concusso? Un'ineleganza è stata, secondo lei. Ma chi è stato il funzionario di polizia concusso? Concussione è un reato gravissimo. Dov'è la concussione? No, ma chiaro, anche l'altro reato di cui si ipotizza ha visto, per esempio, avvenire alcuni ambienti della Chiesa. Lunedì si pronuncerà il Cardinale Bagnasco per un impegno istituzionale. Su questo, guardi, ma lei crede che la Chiesa possa, proprio lo stile di vita che lei stesso critica dal punto di vista privato? Io sono d'accordo, perché la Chiesa fa bene a criticare questo stile di vita, ma la Chiesa parla anche attraverso il Papa per la bioetica, per la questione delle coppie, del matrimonio e della stabilità delle coppie gay. E quando la Chiesa parla così, anche la scorsa settimana ho letto sulla stampa di sinistra, dai parlamentari del PD, dai parlamentari della sinistra, critiche furibonde al Papa, trattato come se fosse un personaggio di altri tempi, anche in maniera irriverente. Allora vorrei capire perché, quando la Chiesa parla e dice certe cose che riguardano la vita politica, la vita sociale, i comportamenti, viene criticata aspramente se dice il Vaticano si faccia i fatti suoi, e oggi la sinistra è tutta in attesa che lunedì la Chiesa dica quello che giustamente dovrà dire, che non può condividere determinati atteggiamenti. Senta, anche l'altro reato, ipotesi di reato, è quello prostituzione minorile, anche questo è un reato molto molto grave, odioso, cioè percepito dalla società. Intanto è odioso che vengano tacciate come prostitute, e siano già state bollate come prostitute, delle ragazze, basta leggere le intercettazioni, e dove c'è scritto che si sono prostituite? Da dove emerge? In alcune intercettazioni si parla, non so, di andare lì per prendere soldi. Sì, peccato che tutti sanno che chiunque vada a Berlusconi, qualunque persona è ospite sua da 10 anni, è un difetto, un pregio del precedente, non lo so, ma chiunque va là ha l'abitudine di fare dei regali, ha l'abitudine di dare milioni di euro ad associazioni di beneficenza e di aiutare decine o centinaia di persone che hanno bisogno. È un reato? Senta, l'ultima domanda, sottosegretario, qualcuno dice, quelli molto vicini a Berlusconi difendono, per esempio, cioè, l'accusa è questa: si vuole difendere l'indifendibile di fronte alle evidenze emerse sui giornali. Lei che replica? Sono sono 20 anni che io ho visto l'indiscutibile evidenza di Mannino e di Gava e di Mastella. Ho scritto anche un libro di centinaia di persone che sono state trascinate in carcere, sono state arrestate, sono state distrutte, e poi un anno dopo, 5 anni dopo, Mannino 17 anni dopo, mi hanno spiegato con assoluzione, con formula piena, che quello che era indiscutibile, che era certo, è stato tutto un equivoco. Sono un po' stanco di questa situazione. La ringrazio, buona giornata. Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo per la pubblicità e meteo, e poi nel nostro sondaggio, che dovete votare su radio24.it come state facendo, parliamo di questa comparsata che a me ha colpito molto negativamente, lo dico subito. Francesco Nuti, molto malato, molto provato dalla malattia, comparso in TV domenica sera, non era la prima volta, da Barbara D'Urso. Tante polemiche oggi. Barbara D'Urso fa un'intervista al Corriere, si difende, la rifarei quell'intervista, non c'è nessun cinismo, non l'ho fatto per gli ascolti. Noi vi chiediamo, è una scelta che condividete, quella di far vedere Francesco Nuti così sofferente, così malato in TV? Votate su radio24.it oppure chiamateci 800 24 00 24, la TV del dolore, spesso sotto accusa. Oppure qualcuno dice: la TV siamo noi, è lo specchio di quello che siamo nella società, dunque perché stupirsi? Tra poco 24 mattino. Eccoci qua, le 8:35 minuti. E allora Barbara D'Urso oggi sul Corriere della Sera dice: io quell'intervista a Francesco Nuti la rifarei. Chi lavora con i disabili mi ringrazia. Domenica è apparso Francesco Nuti molto provato, visibilmente provato dalla malattia, con smorfie di dolore, smorfie nelle risate, il volto molto contratto e le polemiche sulla necessità e l'opportunità di mostrare un Francesco Nuti così. Che ne pensate? È una scelta che condividete? Il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Ho tante sorprese per te, Francesco, questa sera, tutte sorprese belle. Bella come la sorpresa che tu hai fatto a noi, hai fatto a me, accettando di essere qui. Ecco, lo sentite? La smorfia di Francesco Nuti, apparso molto molto provato, con le polemiche, questo pugno allo stomaco, con le polemiche da parte anche di molti telespettatori, Barbara D'Urso che si difende. C'è da dire che per il momento il 79% dei nostri ascoltatori dicono no, non è una scelta da condividere, ma voglio chiederlo intanto a Oliviero Bea del Fatto Quotidiano, giornalista, scrittore. Oliviero, buongiorno. Buongiorno. Che dire di questa immagine? Un'immagine che sta bene, sta male? La TV del dolore? La TV siamo noi e dunque lo specchio della realtà, oppure che? Beh, anche se la TV fossimo noi, casomai sarebbe solo qualcuno di noi, mi auguro, e comunque è un piano inclinato su cui si rotola. Adesso a questo punto ci abbiamo la D'Urso con Nuti, ma di questo passo continueremo e peggioreremo, qualcuno ammazzerà qualcun altro in diretta per fare ascolti. Il problema è la merce. Barbara D'Urso vende una merce, e oggi quando in questa intervista dice lo rifarei perché sono dalla parte dei disabili e via dicendo, sta aggiungendo alla merce spettacolo deteriore, degrado umano, sta aggiungendo un altro tipo di merce, la merce ipocrisia, che è quella, una sorta di cellofan che avvolge tutto il prodotto. Però dice Barbara D'Urso: abbiamo mostrato per esempio Stefano Borgonovo, l'ex calciatore malato di SLA, è andato in onda, tra poco lo sentiremo, si è difesa così il giorno dopo, perché allora mostrare il dolore di Welby, no? Magari per una battaglia politica o per una battaglia etica, e perché allora Nuti no? Beh, intanto c'è una piena consapevolezza di Welby nel fare uso della sua tragedia a fini etici e sociali, e la stessa cosa devo dire di Borgonovo, che fra l'altro è stato anche ospite in una mia trasmissione, io faccio Bronto su Rai 3. Quindi il problema è lo spirito, che cosa si fa, e soprattutto la consapevolezza, la lucidità, la coscienza, la scelta di chi si fa usare o di chi usa se stesso in televisione per dire delle cose. mentre ho trovato orrende in passato, non so, vi ricordate, ormai sono passati 20 anni, credo, quando Costanzo, che è il padre un po' di tutte queste cose, fece uso di Nick 900, che era già morto, un attore. Sì, sì. Ecco, ci fu uno scandalo allora sul fatto, ma come questo è morto, lo rimanda in onda. Pensate in 20 anni quanto siamo peggiorati, vengono usati vivi e in questo stato, quindi questo è un primo precedente. Poi naturalmente ce ne sono stati diversi altri e adesso siamo a questo, lei usa Nuti, io conosco bene Nuti, si aiuta Nuti in un altro modo, non certo così, lei l'ha venduto, l'ha spacciato, siamo a livello di pusher dell'immagine. C'è da dire due cose, intanto che Nuti era apparso un paio di mesi fa anche in Rai, nel programma di Magalli, c'è da dire anche che noi abbiamo contattato la famiglia, il fratello di Nuti, la madre della sua figlia, hanno gentilmente, ci hanno detto no, preferiamo non intervenire, non alimentare nuove polemiche, mantenere un profilo a questo punto un po' più discreto. Io voglio salutare Alessandro Gnocchi del Giornale, buongiorno Alessandro. Alessandro, buongiorno. Eccoci qua. Alessandro Gnocchi ieri ha scritto sul Giornale un commento nel quale, che viene titolato dal Giornale così, in fondo un pugno allo stomaco può essere anche una lezione di vita. In genere la malattia, la morte vengono, non se ne deve parlare, non vengono mostrate, vengono nascoste. Insomma, un commento non del tutto negativo all'idea di mostrare anche una persona nel momento del suo dolore, della sua sofferenza. Gnocchi, perché? Ma io devo dire che probabilmente, anzi certamente, il contesto in cui è stato mostrato Nuti non era adeguato e la situazione nel corso della trasmissione è sfuggita di mano, tanto che appunto il collegamento è stato poi interrotto. Io ero davanti alla TV e devo dire che sono rimasto sconvolto dalle immagini che sono andate in onda. Tutto sommato però, ripensandoci diciamo un paio di giorni dopo, ripensando a quello che ho visto, mi chiedo se la vicenda alla fine non sia anche un po' meno scontata di così, cioè se non sia solo la TV del dolore e così via. Voglio dire che in fondo cosa resta di quello che abbiamo visto? Resta un'immagine fortissima che ci svela, ci toglie il velo davanti agli occhi, ci fa vedere l'ultimo tabù, la malattia, il dolore senza mediazioni, perché lì chiaramente appunto la situazione era sfuggita di mano, e allora anche un pugno nello stomaco, un colpo sotto la cintola, in un certo senso ci risveglia, ci dà la sensazione che il dolore e la malattia esistono, fanno parte della vita, sono ingiusti, arrivano quando pare a loro. E si può prenderne coscienza anche lì, cioè anche in questo modo. Io credo di sì, anzi se ne prende tanto più coscienza, tanto più è, come dire, sbagliato e violento il contesto. Io so che tra chi ha protestato di più, tra gli spettatori, c'è anche l'associazione spettatori Onlus, l'IART. Luca Borgomeo, buongiorno, lei è il presidente. Buongiorno a lei. Voi avete criticato molto questa scelta a Barbara D'Urso. Peraltro c'è da dire, voglio dire, Francesco Nuti, e Barbara D'Urso l'ha ribadito, ha scelto lui liberamente, una persona capace di intendere e volere, voglio dire, non è in grado di esprimersi ovviamente per quello che è successo con la malattia. L'ha scelto anche con i suoi familiari, cioè non gli è stata imposta questa scelta, certo. Ovviamente. Non gli è stata imposta la presenza, ma certamente non erano stati definiti i modi con i quali veniva presentato. Ma a parte questo aspetto che molti telespettatori hanno rilevato protestando, questo evento relativo a Nuti si colloca in una situazione ben precisa. Il primo flop fatto da Stasera Che Sera nella prima puntata aveva allarmato e forse ha indotto nella seconda puntata alla ricerca di qualcosa di sensazionale per far risalire l'audience. Noi non dimentichiamo che nella seconda puntata è andata sotto il 10%. Sì, vabbè, questo cioè, lei dice il dice non cerchiamo scuse, lei dice, basta. Lei dice allora, il cinismo. La cosa si aggrava. La cosa si aggrava perché pur di fare audience si utilizza il dolore, il disagio, prescindendo dal dato poi, sul quale vedo che ci possono essere opinioni diverse. Molti telespettatori hanno segnalato l'indignazione, il rammarico, il disagio per come è stato sbattuto nel video l'immagine di Nuti. Quindi questo è l'aspetto finale di una critica di carattere più generale, perché il programma è il solito programma, i soliti conduttori. Vabbè, sì, ma questo, vabbè, questo è una che... cioè lei dice l'utilizzo del dolore per l'audience, anche se Barbara D'Urso dice l'avrei messo in apertura se avessi voluto gli ascolti, non alle 11, quando anche a me, devo dire, facendo zapping è capitato di incocciare in questa immagine, mi sono anche, l'ho detto anche un paio di giorni fa, mi sono vergognato di me stesso ritrovandomi inizialmente a ridere, lo ammetto, vergognandomi subito dopo, dice, ma che sto ridendo della malattia di Francesco Nuti, ridendo perché non potevo credere che la TV potesse mostrare quello che stavo vedendo. Ma voglio chiedere a Manuela da Legnano, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Manuela, lei che ne pensa? Sì, no, io penso solo una cosa, io non vorrei entrare in queste, ho sentito dei discorsi che condivido, però vorrei solo che qualcuno mi rispondesse a questa cosa. Che differenza c'è tra la malattia di Francesco Nuti, che ha deciso lui di andare lì, sì, supportato dai suoi parenti, e Pier Giorgio Welby, che è stato posto in televisione io sono convinta con una certa finalità, che era quella, purtroppo, no, adesso facciamo tanto i moralisti, no? Però siamo abbastanza ipocriti. Mm. La finalità di Welby era quella di portare avanti una battaglia in cui Welby credeva, opinabile o no, la battaglia allora, per l'eutanasia, certo, diciamolo. Allora, non è peggio strumentalizzare il dolore per quel fine? Vediamo, Oliviero Bea, a lei ha già detto qualcosa in realtà, però l'ascoltatrice dice... Allora, sì, probabilmente... quello che diceva Gnocchi, che ho sentito e che in parte condivido, genera un pochino di confusione, o forse anche quello che ho detto io. Il problema non è cancellare il dolore dalla televisione o cancellare la realtà, che è fatta anche di dolore, dalla televisione. Un conto è fare un servizio in un certo contesto sul problema, non so, dei figli con handicap, dei ragazzi down, faccio un esempio non a caso, perché poi sono stati usati in programmi della De Filippi in modo orrendo i ragazzi down, secondo me, mentre invece dei servizi in altro contesto, con altre premesse, sul problema, non so, dell'inserimento di ragazzi con handicap nel mondo del lavoro è una cosa serissima e la televisione fa bene a farlo. Quindi cerchiamo di distinguere Borgonovo da Nuti, sono due cose molto diverse. Purtroppo il problema è la merce. Il caso di Borgonovo non è merce, ma diventa servizio. È sempre il discorso dell'informazione che ci fa spettacolo. Ci sono delle volte in cui l'informazione rimane essenzialmente servizio, cioè utilità per gli altri. Discutibile, perché poi lei ha fatto a ribadire adesso che è opinabile. Certo che è opinabile, ci mancherebbe altro l'uso di Welby e via dicendo. Vogliamo parlare di Luana Englaro, della mostruosità per cui è diventato un dibattito politico, una personale, una cosa. Quindi esatto, sono cose opinabili, ma sono battaglie civili che uno può condividere, vanno contestualizzate. Quello che è stato già ribadito, ma forse non con sufficiente chiarezza, è che se da un lato è sottile il discorso che fa Gnocchi sulla TV del dolore, sottile se vogliamo prenderne alcune specie, dall'altro è grossolano invece il punto d'arrivo, cioè quello che abbiamo visto in televisione con Barbara D'Urso, che lo rifarebbe, certo che lo rifarebbe e magari fosse più dichiarata, lei come gli altri, per carità, non è fatto la questione di quel canale Mediaset o di lei o di un programma piuttosto che l'altro, un tipo di programma piuttosto che l'altro, e faccio proprio un problema di strumentalizzazione, di speculazione merceologica. È stato venduto come una merce. Devo dare le informazioni sul traffico e riprendiamo da qui. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Giusto o no, condividete o no la decisione di mostrare Francesco Nuti in quelle condizioni di sofferenza e malattia. Carlo da Bologna, buongiorno. Ciao, buongiorno. Dica. Buongiorno. Sinceramente, non essendoci un metro di giudizio su quelli che sono gli scopi, il moralismo non piace. Certo, vedere Muti in quelle condizioni ci fa sentire vivi, questa è la TV del dolore, questo è il messaggio, no? Però dall'altra parte bisogna anche capire se c'è un messaggio, se si vuole... Lei l'ha colto questo messaggio? Certamente il messaggio, le polemiche le capisco, lavoro anche io con i disabili, quindi so quanto sia dolorosa da una parte, ma anche delicata la condizione, quindi di pubblicizzare un evento che può essere il dolore di una famiglia o di una persona. Sì, sì. Quindi il fine è molto importante, però il moralismo in una televisione in cui, perdonate, nell'ora in cui mio figlio a 11 anni guarda la televisione e si vede, cioè, non c'è un metro, un canone, per cui in Italia perché ci facciamo sti problemi? Quindi c'è perché fare discorsi di moralismo, sì, tanto più perché? Applicati al mondo della TV. Esatto, la ringrazio, Carlo. Vorrei, Alessandro Gnocchi, lei ieri ha concluso l'articolo sul giornale dicendo sì, certo, e ce l'ha detto anche qui, non sarà stata televisivamente corretta magari la gestione del tutto, ma la lezione è una lezione comunque da ricordare. Insomma, Barbara D'Urso che dice rifarei l'intervista, allora fa bene a difendere quello che ha fatto. Ma io credo che lei intenda rifarei l'intervista, forse la rifarebbe in modo diverso, in un contesto diverso, preparandola e studiandola in modo diverso. Io dico che appunto, pur essendo il contesto sbagliato, alla fine è passato un messaggio molto forte e questo non riesco a vederlo in maniera negativa, anche se io stesso quando appunto... quando ho visto la trasmissione in diretta sono rimasto scioccato. Questo shock, tutto sommato, mi ha tolto un velo dagli occhi, mi ha fatto capire delle cose, mi ha fatto vedere delle situazioni che non conoscevo ed è stato ancora più forte forse proprio perché era televisivamente scorretto, cioè perché era senza mediazione, perché lì era chiaramente una situazione che era sfuggita di mano agli autori e a chi ha fatto la trasmissione. Sentiamo Giuseppe da Alessandria, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Ma guardi, io ho seguito attentamente la trasmissione. Come prima reazione io avevo veramente la crema agli occhi perché era un personaggio così... Quindi mi devo vergognare io che mi sono ritrovato a ridere. Abbiamo avuto la stessa reazione in modo diverso, abbiamo magari situazioni diverse da reagire a queste situazioni. Io avevo le lacrime agli occhi, poi ho riflettuto, ho detto, ma la D'Urso, che è una persona che rispetto per quello che fa, eccetera, eccetera, ma vogliamo dire che ha perso il controllo tutto in un momento e mette in trasmissione una persona senza riflettere su quello che poi entra? Ma no, ma assolutamente, guardi, ci sono gli autori, l'hanno contattata, infatti, ma poi, infatti, guardi, nell'intervista che oggi trovate sul Corriere della Sera, Barbara D'Urso non è che dice ho perso il controllo, cioè, assolutamente, dice infatti, anzi rifarei tutto, chi lavora con i disabili mi ringrazia. Quello che voglio dirle io, signor Milan, è questo, secondo me è stata una cosa terapeutica che Muti in quel momento aveva bisogno. Cioè, io ho avuto anch'io dei problemi, eccetera, eccetera, e il discorso psicologico su certe malattie diventa fondamentale al 90%. Adesso, qui magari sono problemi diversi, però secondo me Muti aveva bisogno di ritornare, tra virgolette, nell'ambiente, nei tempi, di quello che faceva prima. E dentro di lui, probabilmente per la malattia che ha, ne prenderà sicuramente dei benefici. Allora, vediamo se su questo Olivero Bea e Borgomeo. Bea, anche Barbara D'Urso dice Nuti l'ha chiesto, è lui che vuole tornare, lui che vuole l'applauso del pubblico, è lui che vuole sentire quel calore che per tanti anni gli è mancato attorno, e quindi è la sua famiglia che ci ha detto sì, è una bella cosa per lui. Questo è condannabile? Dal mio punto di vista è un pessimo segnale che arriva a tutti, compresa l'idea che ci sia voluto Nuti in quello stato in televisione per squarciare dei veli. Ma andate negli ospedali, guardate la realtà senza prosciutto sugli occhi, non c'è proprio bisogno di vedere la televisione per rendersi conto di problemi, questioni serissime, del dolore, della sofferenza in questa società. E poi che l'abbia voluto Nuti, francamente, che c'entra? Allora, se con questo avesse chiesto per alzare gli ascolti di ammazzarsi in diretta, gli avesse detto di sì. Voglio dire, è un piano inclinato. Quando io sento parlare di moralismi, detesto gli ismi, diciamo linguisticamente, si tratta di un minimo di decenza etica, non lo so, che cosa è ridotto il rapporto fra persone oggi in questo paese, non solo in questo paese, ma visto che parliamo di noi, attraverso la televisione, è ridotto a questo, ad applicare canoni e criteri come quello dell'astratto moralismo a spettacoli di quel tipo. Ma, signori, poi non ci lamentiamo che questo paese vada sempre più in basso, cioè, è esattamente il piano inclinato di cui parlavo all'inizio. Borgomeo, in 30 secondi, il presidente dell'AIART. È fuorviante parlare del dramma di Muti, il problema è di come questo dramma è stato presentato, le modalità, l'insistere, il modo eccessivo di sottolineare il dolore. Il problema è che era inserito in un mix di banalità, volgarità, come il programma. programma. Per questo motivo siamo molto molto molto contenti che gli spettatori hanno penalizzato un programma e indotto Mediaset a sospenderlo. Che il fatto della sospensione è notevolmente importante. Vabbè, ma quello dipende dagli ascolti, gli ascolti una vanno male. Dei telespettatori. Sì, ma quello vuol dire gli ascolti vanno male e Mediaset ha sospeso il programma, non tanto per le polemiche, non credo che abbiano inciso molto le polemiche sulla vicenda Nuti. In ogni caso io vi ringrazio, da Oliviero Bea del Fatto Quotidiano, Alessandro Gnocchi del Giornale e Luca Borgomio, presidente dell'AIART, Associazione Spettatori. Ollus, grazie per essere stati con noi, con c'è da dire il 78% per ora, sì, 78% dice non è condivisibile mostrare Nuti, anzi 79%, votate su Radio24.it. Ringrazio Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè, la sua penna d'alpino, penna nera, in regia. Come dire, chi c'è? Oscar Giannino, come di consueto, alle 9:09 in punto, e noi ci troviamo domattina alle 7:20.